Eurozona in recessione nel 2012, tagliate le stime sul PIL. Bersani, oggi vedo Monti, parleremo di lavoro, riprende anche la trattativa governo parti sociali. Immigrazione, Italia condannata per i respingimenti verso la Libia. Crisi India, per i Marò altri 7 giorni di custodia, il Premier, ci stiamo impegnando. Una buona giornata dalla redazione da Anna Rita D'Ambrosio. L'eurozona dunque in recessione nel 2012, la trattativa sul mercato del lavoro, lo stallo sulle liberalizzazioni, tanti i temi oggi in primo piano. Partiamo però dalla certificazione che è arrivata da Bruxelles. L'eurozona è in recessione, sulle nuove previsioni della Commissione europea pesano le condizioni economiche critiche e il perdurante basso livello di fiducia. Leggera ripresa nella seconda parte dell'anno, in Italia PIL in calo dell'1,3% e inflazione al 2,9%, fanno peggio solo Portogallo, Estonia e Finlandia. Come hanno reagito le borse? Lo chiediamo e la ringraziamo alla nostra Deborah Rosciani. Buongiorno a tutti. Allora, c'è stata una vera e propria doccia fredda per Piazza Affari, che forse non si aspettava queste indicazioni della Commissione europea, anche se negli ultimi giorni a raffica sono arrivate indicazioni da parte di altri autorevoli osservatori che hanno ormai certificato la recessione per il 2012 per l'Italia. L'ultima, lo ricordiamo, è stato il dato della Banca d'Italia diffuso poco fa dal governatore Visco, che ha detto che nel nostro paese nel 2012 il PIL scenderà dell'1,5%. In ogni caso, la borsa europea era partita in negativo, poi dopo la pubblicazione dell'IFO tedesco, l'indicatore di fiducia delle imprese tedesche, risultato migliore delle attese a febbraio, erano tutte passate in positivo e adesso tornano a scendere di nuovo. Milano è la peggiore, perde l'1,20%. Questa indicazione della Commissione europea è stata presa a pretesto dagli operatori per vendere tutti i titoli bancari, ma non solo, che negli ultimi giorni avevano corso parecchio. Uno su tutti, Monte dei Paschi, che è arrivato a perdere quasi il 6%, adesso cede il 3%, ma sono in calo anche Fiat, SPA, meno 4,64%, Unicredit, meno 4%, la Popolare di Milano, meno 3,60%. Perde anche Mediaset il 4%, dopo la pubblicazione dei dati della controllata spagnola, che non sono piaciuti affatto al mercato. In tutto questo, però, dei dati della Commissione europea, non ne risente l'euro, perché è ritornato sopra 1,33% rispetto al dollaro, mentre rimane ancora un po' di tensione sul fronte obbligazionario, perché lo spread anche questa mattina è in rialzo ed è intorno ai 366 punti base. Per ora è tutto. Grazie Deborah. Abbiamo detto tanti temi in primo piano. La Corte europea dei diritti umani di Strasburgo ha condannato l'Italia per i respingimenti verso la Libia. È il maggio del 2009. Dopo aver vagato in mare per 3 giorni e 3 notti, un barcone carico di migranti, 200 tra cui donne e bambini, prevalentemente somali ed eritrei, viene intercettato dalle motonavi italiane nelle nostre acque. Sperano di arrivare a Lampedusa, invece vengono accompagnati a Tripoli. 24 di loro non ci stanno e decidono di fare ricorso presso la Corte dei diritti dell'uomo di Strasburgo. La condanna è arrivata oggi e si basa su due pilastri. Il primo: non si può espellere dal proprio territorio dei migranti senza essere sicuri che nel paese di destinazione siano rispettati i diritti umani o che da quel paese non vengano rimandati verso i luoghi d'origine se sono fuggiti da violenze, torture o guerre. Secondo, i respingimenti di massa semplicemente non si possono fare, spiega Andrea Saccucci, avvocato dei ricorrenti. Si collega anche alla violazione del diritto a un ricorso interno effettivo derivante dall'impossibilità per questi migranti di rivolgere la propria richiesta di protezione e di accedere quindi alle procedure previste dal nostro diritto. La Corte ha anche stabilito che l'Italia dovrà risarcire con 15.000 euro a testa i migranti e dovrà consentire il loro rientro nel nostro paese. Ma l'impatto è ovviamente più generale. L'Italia dovrà tenere conto di questa sentenza nell'ambito della rinegoziazione degli accordi con le nuove autorità libiche, nell'ambito di tutte le operazioni di contrasto all'immigrazione clandestina, e anche l'Europa non potrà ignorare questa pronuncia, ma dovrà, diciamo, conformare la propria politica di contrasto e di controllo delle frontiere marittime ai principi del rispetto dei diritti umani sanciti dalla Corte. Peraltro, a questo punto punto tutti i migranti che siano stati vittime di respingimenti di massa potranno presentare ricorso a Strasburgo o agli organi giurisdizionali italiani, con la quasi certezza di vincere. Simone Spezia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Dunque, lo avete sentito, una questione complessa, ci saranno sicuramente anche delle ripercussioni politiche. Noi proprio di politica parliamo, dei due temi caldi di questo momento, le liberalizzazioni da una parte e il mercato del lavoro dall'altra. Partiamo dalle liberalizzazioni e stallo in commissione, e ci sono anche dei problemi politici. Alessandra Schepisi in diretta. Sì, buongiorno, è un percorso faticoso quello del decreto liberalizzazioni, stretto tra le pressioni delle lobby da una parte e tra la complicata quadra politica dall'altra. Il decreto è attualmente all'esame della Commissione Industria del Senato, mentre il voto in aula è previsto per mercoledì. Sono parecchi nodi da sciogliere, dai tassisti alle farmacie, dai tribunali per le imprese, passando per la separazione Eni-Snam, e il testo rischia di arrivare depotenziato. I relatori sono riuniti in questi minuti con il governo, la seduta riprenderà alle 16, intanto ha già fatto discutere via libera dell'esecutivo all'emendamento che leva la nuova authority dei trasporti, poteri di attribuzione delle licenze dei taxi che invece ritornerebbero ai comuni. C'è da dire però che sono stati approvati anche emendamenti a favore dei consumatori, come la gratuità dei conti correnti per i pensionati con assegno inferiore ai 1.500 euro e la cancellazione delle commissioni bancarie quando si paga con carta di credito la benzina al distributore. Sulle farmacie invece crescono le resistenze per le nuove aperture, mentre l'ICI per la Chiesa non si farà subito ma con emendamento. Intanto però insorge il terzo polo, che avverte: se il testo non verrà migliorato il nostro voto potrebbe non essere scontato. Getta invece acqua sul fuoco il leader del PD Bersani: ci sono passi avanti, il testo è equilibrato ma si può fare anche qualche sforzo in più. E da Roma è tutto, a voi la linea. Grazie Alessandra. Oggi intanto la trattativa sul mercato del lavoro prosegue, la Fornero dopo Monti ha precisato che si andrà avanti comunque anche senza intesa. Non gradisce la posizione il PD, il segretario Bersani oggi vedrà il Premier, ma sentiamo cosa ha ribadito poco fa sul lavoro. Io ho sentito da molti giorni correre facilmente l'idea si può fare senza intesa, senza accordo. Io sostengo e dico attenzione, e non sto parlando di CGL come si continua a dire, sto parlando di un accordo governo e parti sociali davanti a un paese che è in recessione. Queste dunque le parole di Bersani: mercato del lavoro da una parte, liberalizzazioni dall'altra, le nuove grane di Monti. Ne parliamo e lo ringrazio con Stefano Folli del Sole 24 Ore. Stefano, insomma, la situazione sta diventando un po' più complessa. Da un lato il terzo polo sulle liberalizzazioni, Bersani che oggi vede Monti, però continua a dire che insomma l'accordo ci vuole. Tu quale commento puoi trarre da questa fase abbastanza complessa? Sul mercato del lavoro la mia impressione è che Bersani voglia fare l'accordo, naturalmente, però si rende conto che questo accordo deve trovare la copertura delle forze sociali, dei sindacati nel loro complesso, e quindi siamo in un momento davvero difficile di questa trattativa. D'altra parte non riesco neanche a immaginare che davvero poi ci sia uno strappo di queste proporzioni sulla questione del lavoro. Il governo dice andiamo avanti lo stesso perché questo, diciamo, è anche una posizione di forza al tavolo negoziale, però è interesse di tutti riuscire a trovare una forma di accordo, naturalmente anche di Bersani. Spero ancora che sia possibile. Oggi c'è questo incontro, l'abbiamo detto, tra Bersani e Monti. Intanto sulle liberalizzazioni c'è questa posizione del terzo polo espressa poco fa, così il voto non è scontato. Ma sulle liberalizzazioni io dico questo, che ci siano dei gruppi di interesse, delle lobby che premono sul Parlamento, lo considero abbastanza ovvio e normale. Che ci sia però da parte di alcune forze parlamentari o di gruppi all'interno del Parlamento questa eccessiva arrendevolezza alle lobby, questo è davvero preoccupante. Occorre che ci sia da parte, diciamo, dei partiti, se ancora hanno questa legittimità e la vogliono mantenere, la capacità di opporsi alle lobby, e da parte del governo anche la capacità di mettere, di battere i pugni sul tavolo all'occorrenza e di arrivare anche a mettere la fiducia su un testo che sia il più possibile rispondente agli obiettivi che l'esecutivo stesso si era posto quando ha affrontato la questione delle liberalizzazioni. Grazie, grazie a Stefano Folli del Sole 24 Ore per la sua analisi. Il governo è impegnato in questo momento anche su un altro fronte, il caso dei Marò arrestati in India. Oggi è stato prolungato il fermo. Scadute le 72 ore del fermo, i due Marò italiani sono stati accompagnati dalla polizia locale davanti al giudice e il giudice ha deciso per altri 7 giorni di fermo. Dunque tutto bloccato per i militari italiani. Poco prima di partire, Massimiliano Latorre e Salvatore Girone hanno ricevuto la visita del sottosegretario De Mistura, dal quale hanno ascoltato quello che, nonostante si tratti di militari addestrati e pronti ad affrontare ogni genere di evento, tutti vorrebbero sentirsi dire in una simile situazione: non vi lasceremo mai soli. Dall'Italia lo stesso ha ribadito anche il Presidente del Consiglio. Il governo è impegnato su tutta la linea per risolvere la vicenda. L'impegno è quello di riportarli a casa, ha aggiunto il ministro Di Paola. Martedì il titolare della Farnesina Terzi sarà a Delhi per un viaggio programmato da tempo. È quasi scontato che nei colloqui ufficiali si parlerà del caso, anche perché l'alta corte del Kerala ha deciso di rinviare proprio a martedì la sentenza sul ricorso dell'Italia contro la denuncia per l'omicidio dei due pescatori. La corte ha chiesto a entrambi i governi di precisare le loro posizioni, oltre ai chiarimenti sulla mancanza di cooperazione fra le parti. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E noi ci spostiamo in Siria all'indomani dell'uccisione ieri di due giornalisti occidentali. Domani è un giorno importante per la Siria, perché a Tunisi c'è la conferenza degli amici della Siria. Ringrazio Alberto Negri che è in collegamento con noi. Alberto, che cosa dobbiamo aspettarci in questa fase complicata? Oggi ancora vittime, ieri due giornalisti occidentali, dall'incontro di domani. Ma direi che l'incontro di domani, più che amici della Siria, si dovrebbe chiamare la riunione dei nemici di Assad, perché da una parte abbiamo il fronte arabo costituito dalle monarchie sunnite come l'Arabia Saudita e il Qatar, che vogliono buttare giù a tutti i costi Assad. Dall'altra abbiamo americani e europei che prima in qualche modo esitavano su decisioni relative a intervenire o meno in Siria. L'intervento militare per ora è escluso, ma gli episodi di ieri, con l'uccisione di due giornalisti occidentali, tra cui la famosissima reporter americana del Sunday Times, Mary Colvin, in qualche modo stanno spingendo a opzioni un po' diverse. La stessa Casa Bianca ha reagito in maniera infuriata. Qui si tratta di capire che cosa fare. Il Consiglio Nazionale Siriano, cioè il fronte dell'opposizione politica, vicina anche al Free Syrian Army, chiede che l'opposizione venga armata, che insomma in qualche modo la comunità internazionale prenda decisamente posizione. Americani e europei finora hanno esitato, ma adesso dovrebbero prendere qualche decisione differente, forse quella per esempio dei corridoi umanitari di cui si era parlato qualche tempo fa, decisione peraltro non per nulla facile da applicare. Quel che è certo è che ogni giorno di più la situazione in Siria diventa sanguinosa, difficile, e sempre più si avvicina a quello spettro di guerra civile che forse è stato anche troppo annunciato. Le 13:16 nella prima parte del nostro GR abbiamo parlato di Eurozona in recessione nel 2012, tagliate le stime sul PIL, ci sono state reazioni sulle piazze finanziarie europee che sono in ribasso. Abbiamo parlato anche di mercato del lavoro, perché Bersani oggi vede il Premier Monti, pochi minuti fa le agenzie hanno battuto la notizia che l'incontro si terrà alle 19. Riprende oggi intanto anche la trattativa governo-parti sociali. Abbiamo parlato di immigrazione perché l'Italia è stata condannata per i respingimenti verso la Libia, abbiamo parlato anche della crisi con l'India, per i Marò altri 7 giorni in custodia. Ancora una buona giornata da Anarita D'Ambrosio e dalla redazione. Come detto, parliamo però adesso di evasione fiscale, un tema a noi particolarmente caro. L'evasione è un problema culturale, dobbiamo fare un grosso sforzo per riportare questo paese alla normalità, ma mi sembra che qualcosa stia cambiando, lo ha detto oggi il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, nel corso di un'audizione in Parlamento. E noi allora ascoltiamo il nostro appuntamento quotidiano con il paese sommerso. Il paese sommerso. Il paese sommerso. Storie di ordinaria evasione fiscale. pagare le tasse scolastiche addirittura non riconoscono il figlio. Possibile? Sì, accade a Pavia, dove alcuni genitori di bambini iscritti alle scuole materne statali, pur di godere dell'esenzione, ricorrono a un espediente denunciato dal sindaco Alessandro Cattaneo, vicepresidente vicario dell'ANCI, l'Associazione dei Comuni Italiani. Il 30%, un bambino su tre ha un'esenzione totale dalla retta dell'asilo, mensa compresa. Un dato così enorme evidentemente sottende un fenomeno di evasione o quantomeno elusione fiscale. Succede addirittura che in coppie di fatto si è arrivati a volte a genitori che ufficialmente non riconoscono un figlio, in maniera che il reddito a quel punto è solo di uno dei due coniugi, senza reddito, e l'altro magari ultramilionario, pur essendo tutto questo magari nella realtà solamente un aspetto formale proprio per aggirare le norme. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Prima i ministri, poi i parlamentari. Alle 14.30 il ministro della Pubblica Amministrazione Patroni Griffi consegnerà alle commissioni Affari Costituzionali e Lavoro della Camera la lista con gli stipendi dei super manager pubblici interessati dal tetto previsto dal decreto Salva Italia. Saranno resi noti i dati però ovviamente delle amministrazioni che hanno risposto e anche di chi invece non lo ha fatto, perché sono tante le amministrazioni che non hanno fornito il dato. La cronaca: ha omessa comunicazione alle autorità marittime dell'incidente, la nuova condanna per l'ex comandante della Costa Concordia, Francesco Schettino, notificata ieri sera dalla procura di Grosseto contestualmente agli avvisi di garanzia per i nuovi 7 indagati. E noi torniamo su un altro tema di cui si sta discutendo molto in queste ore: Don Luigi Giussani verso gli altari. Un lunghissimo applauso ha accolto l'annuncio ieri in Duomo dell'avvio della causa di beatificazione per Don Luigi Giussani a 7 anni dalla morte. Era il 1969 quando il prete Brianzolo diede vita a Comunione e Liberazione. Il suo messaggio trascinò intere generazioni, a cui Don Gius spiegava che il cristianesimo non è illusione e che i cristiani vivono nel mondo e dunque devono sporcarsi le mani. Un messaggio che negli anni ha trovato diverse attualizzazioni. Spesso membri di CL sono scesi in politica, hanno avuto legami con centri di potere tramite il braccio economico rappresentato dalla Compagnia delle Opere. Per questo, come fu per il fondatore dell'Opus Dei, Escrivade Balaguer, anche l'avvio della causa di beatificazione per Don Giussani è avvolta dalle polemiche, anche se per chi lo ha conosciuto Don Luigi è già un santo. Lo stesso arcivescovo di Milano, Angelo Scola, amico personale di Don Giussani e seguace, che qualche settimana fa aveva preso le distanze dal movimento, durante l'omelia in Duomo ha rivolto un monito a CL. L'amore che Monsignor Giussani le portava è documentato da mille e mille segni e testimonianze. Per i fedeli di questa diocesi appartenenti al movimento di Comunione e Liberazione, questo dato di fatto costituisce una responsabilità che chiede di essere sempre rinnovata. Praticare una profonda comunione con tutta la Chiesa diocesana. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Voltiamo pagina, bisognerà aspettare maggio per avere una prima risposta sulla velocità dei neutrini dopo l'annuncio dei dati del 23 settembre scorso, secondo i quali queste particelle misteriose sembravano battere la velocità della luce, la scoperta invece ieri di alcune anomalie. L'ex ministro PDL della ricerca, la Gelmini, ve lo ricorderete, protagonista di quella storica gaffe proprio su questo esperimento, ha fatto ieri autoironia su Twitter e ha detto: avevo il sospetto di avere manifestato un entusiasmo eccessivo, ora mi consolo, non ero solo io a sbagliare. E allora io ringrazio, perché ne parliamo con lui, ringrazio Maurizio Melis, che ritroveremo stasera, vi ricordo, in Smart City. Maurizio. Parliamo di due errori un po' diversi. Da una parte, uno degli esperimenti scientifici probabilmente più complessi della storia dell'umanità, dall'altra, insomma, di un granchio colossale, un tunnel di 738 chilometri sotto la crosta terrestre a 11 chilometri di profondità nel punto più profondo. Insomma, mi sembrano due sviste un po' differenti, ecco. Vabbè, però comunque ridiamo anche di questo sì, commento. Sì. Ma ieri anche la Gelmini ne rideva quando le è stata data la notizia in una trasmissione televisiva, quindi va bene così. Maurizio, allora, nuovi test a maggio, però l'errore pesa, quanto pesa, non si è ancora individuato il perché. sì, non si è capito esattamente il peso dell'errore, sono state trovate, mi pare di capire, un paio di anomalie. Da una parte un orologio che era collegato al GPS, che è un dispositivo che serve a geolocalizzare. Insomma, noi dobbiamo considerare che questo fascio partiva appunto da circa 700 km di distanza, attraversava la crosta e arrivava a questo rilevatore. Lì c'è tutta una serie di strumenti, connessioni, fibre ottiche che trasmettono il segnale. Allora bastava un errore in uno qualsiasi dei tanti passaggi, un errore di assolutamente piccolissime frazioni di secondo, determinare questa incredibile non scoperta, in questo caso che gli neutrini viaggiano più veloci della luce. I ricercatori evidentemente si sono messi a verificare nel dettaglio tutti questi tutti questi anelli della catena di dispositivi che serviva per fare la ricerca, e hanno trovato qualcosa che non quadra. Non sono riusciti evidentemente a determinare con precisione l'esatto errore che questi errori introducono, e quindi chiedono di fare altre rilevazioni. Secondo me è anche un po' un modo per scusarsi e dire: beh, insomma, abbiamo scatenato un pandemonio, adesso non vogliamo dire che tutti gli esperimenti che sono partiti sono inutili. Grazie al nostro Maurizio Mellis, che ritroveremo stasera. E noi parliamo di una provocazione in una farmacia di Milano: 3 confezioni di ansiolitici al prezzo di 2. Lo sconto riguarda il Tavor e lo applica una farmacia appunto milanese, con tanto di manifesti in vetrina. Il dottor Paolo Gradnik è il titolare. È stata un'iniziativa forte, e devo essere sincero, quando di fatto è passato lo scorso decreto legge c'era già questa norma qui, però in quel momento non avevo ritenuto, ovviamente proprio per questioni di riforma, di deontologia eccetera. Dato che in questo decreto Crescitalia, invece di correggere quella anomalia dal mio punto di vista, si va ancora oltre, perché io avrei potuto essere ancora più provocatorio e mettere lo sconto sulla morfina, perché oggi come oggi, col documento che va in discussione in aula, se non viene corretto, io potevo farlo sulla morfina. È ovvio che questo pone un problema. Il problema è se veramente tutti i farmaci siano beni da trattare come qualsiasi bene commerciale. Per questo si è beccato una denuncia dall'ordine? Io non so niente di tutto questo, devo essere sincero. Non ho ricevuto nessun tipo di comunicazione, francamente faccio fatica a capire su che basi potrebbe essere questa cosa. Dottore, mi tolga una curiosità: da quando voi avete messo fuori questa offerta ci sono stati molti clienti per il Tavor? Ma devo dire che i commenti dei miei clienti sono abbastanza di perplessità, perché effettivamente il sentire della gente comunque non considera i farmaci uguali ai pelati. Parliamo di musica. Il Banco del Mutuo Soccorso, leggendaria band del rock progressivo, festeggia i suoi 40 anni di storia con un tour. Ospite speciale sul palco la band delle Orme, un altro grande gruppo rock italiano, per una jam session evidentemente senza precedenti. Il cantante del Banco del Mutuo Soccorso, Francesco Di Giacomo, commenta così questa celebrazione dei 40 anni del gruppo al microfono di Adriana Fracchia. Che dire, sono stati un lampo, in mezzo c'è stato il temporale, è così che funziona, un po' come la vita, no? Ma poi non è tanto andarsi a confrontare con una celebrazione che sinceramente può lasciare il tempo che trova, ma il punto è vedere dove sei tu, dove sei arrivato, se non sei la cover di te stesso, insomma, no? Credo che questa sia la prova del nome più interessante, al di là della letteratura o del romanzo, ai chilometri, i locali, la gente, i cavalieri, l'arme di amore. Sono passati e stanno passando 40 anni di storia con una lentezza e una feroce retromarcia continua, perché non mi sembra che le cose siano migliori di 40 anni fa, insomma. Imago Mundi è il titolo di uno degli inediti del nuovo album. Sì. Perché la scelta di questo titolo? Ma proprio per questo, perché l'immagine del mondo è proprio questa. Forse ci salverà solo l'animale rimasto in noi, se non prenderà il sopravvento anche lì quella mefitica razionalità che ci sta contraddistinguendo. Io non sono di quelli che pensa che ci salverà la musica, penso che ci salverà l'istinto di sopravvivenza. E quello può avere qualsiasi reazione, dall'urlo allo schiaffo. Secondo lei il rock è morto? Secondo secondo me il rock è inteso come l'immagine delle catene del bullone, può essere anche morto. Il rock è inteso come modo di guardare il mondo, di guardarsi intorno con un certo ghigno, quello non è morto e spero che non muoia. Di calcio parleremo in A Tempo di Sport. Stasera c'è il ritorno dei sedicesimi di Europa League. Vi dico solo che Monti sta tenendo la conferenza stampa congiunta con il premier spagnolo Rajoy. Evidentemente ne parleremo nel corso delle prossime edizioni. Questa, curata e condotta da Anna Rita D'Ambrosio, si conclude qui. Grazie in regia a Paolo Corleoni. Prossima edizione alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.